GR, giornale radio del Friuli Venezia Giulia. Giornata da bollino nero sulle autostrade, almeno secondo le previsioni, e all'incrocio di esodo e controesodo, qui da noi si aggiunge anche il traffico dirottato su Fernetti e quindi sull'Isert dalla chiusura della H4 slovena. Intanto da Lubiana è partita una lettera ufficiale per Roma. Nella pagina di cronaca l'incidente mortale che ha funestato la Carnia ieri sera sulla strada che collega Villa Santina a Tolmezzo ha perso la vita un motociclista di 58 anni. Complessa e lunga operazione di soccorso in montagna, conclusasi in tarda serata tra le vette della Val Cimoliana. Una coppia di escursionisti di 25 anni del Pordenonese si era trovata improvvisamente in difficoltà. Nuova operazione delle forze dell'ordine contro la prostituzione celata dietro i centri massaggi. Nell'arco di poco tempo i carabinieri di Trieste hanno chiuso un secondo locale gestito da cinesi, nel quale venivano sfruttate ragazze anch'esse cinesi. C'è chi va in pensione, ma anche chi lascia scrivania o fabbrica per mille altri motivi, compreso il licenziamento. È alta la mobilità nel mondo del lavoro. Nei prossimi 5 anni in regione toccherà il 14% del totale della forza lavoro. L'Istria è la seconda area turistica più affollata d'Europa nel 2025, superata solo dalla Grecia con un aumento dei pernottamenti rispetto al 2024. Rovigno guida la crescita, più 3%, grazie soprattutto ai turisti tedeschi, austriaci e italiani tra i 45 e i 64 anni. Buongiorno dalla testata giornalistica regionale, ai microfoni La Razzani e Antonio Cajazza. Una lettera ufficiale del ministro dell'interno sloveno al suo collega italiano alza il livello del confronto e lo porta fino alle due capitali. Sulla soluzione dell'emergenza traffico esplosa dopo la chiusura per lavori della superstrada H4 slovena in direzione di Gorizia. Stavolta la chiusura della famigerata superstrada slovena H4 c'entra poco, ma è ancora sotto pressione il casello dell'Isert, puro controesodo, come accade sempre negli ultimi 2 weekend di agosto con i vacanzieri che tornano dalle ferie in Croazia e si sommano a chi esce dalla Venezia Giulia. Da metà mattina traffico in aumento e coda che ha raggiunto i 5 km in media con le ultime giornate, anche se stavolta non ci sono i camion e la situazione sembra leggermente più scorrevole. Traffico intenso e code anche per le vie alternative, a partire dalla rotonda di Sistiana, dove si unisce il traffico in uscita dalla costiera a quello della provinciale che passa lungo il Carso. Le file, nonostante l'impegno della polizia locale alla rotonda e pattuglie di polizia e carabinieri, superano il chilometro per diradarsi subito dopo l'intersezione. Oggi, dicevamo, non c'è traffico pesante, ma la situazione si riproporrà lunedì, tanto all'Isert in uscita quanto a Fernetti in entrata. Il ministro degli interni sloveno Poklukar ha consegnato una richiesta all'omologo italiano Matteo Piantedosi, invitandolo ad applicare modifiche temporanee o adattamenti al sistema di controlli a campione al confine a camion e automobili dovuti alla sospensione del trattato di Schengen da parte dell'Italia. Nessuna risposta per ora dal Viminale, che aveva escluso questa ipotesi mesi fa in una riunione in prefettura. Intanto la questura di Trieste aggiunge agenti al valico per intensificare e velocizzare i controlli, anche se il sindacato di polizia SAP è polemico. Servono posizioni fisse, attrezzate e adeguatamente climatizzate, dice il segretario Tamaro. Monfalcone, Andrea Saule, PGR, Friuli Venezia Giulia. Un uomo di 58 anni ha perso la vita nella tarda serata di ieri in un incidente avvenuto poco dopo le 22 lungo la strada regionale che collega Tolmezzo con Villa Santina in località Casali Piluc. L'uomo Giampiero Plotzner, ex guardia carceraria, procedeva in sella alla sua moto quando, per cause da accertare, ha perso il controllo del mezzo ed è stato sbalzato contro un muretto. Plotzner è morto sul colpo e inutili sono stati i tentativi di rianimarlo da parte del personale sanitario del 118 inviato dalla centrale operativa Sores, che è intervenuto con il supporto dei vigili del fuoco. I rilievi sono stati svolti dai carabinieri della locale compagnia chiamati per accertare la causa e la dinamica dell'incidente, escluso il coinvolgimento di altri mezzi. È friulana di Udine la bambina di 7 anni ricoverata dall'altro ieri in gravi condizioni nell'ospedale di Reggio Calabria per le ferite riportate precipitando dal balcone della sua abitazione al 5° piano di un palazzo del rione Gebbione. La famiglia era in vacanza in Calabria presso la famiglia della madre. Sul posto sono intervenuti i carabinieri che hanno scortato l'ambulanza fino al pronto soccorso. I carabinieri hanno anche avviato le indagini per ricostruire la dinamica di quanto è accaduto. Secondo una prima ricostruzione, la bambina si trovava in casa con i genitori ed è precipitata dal balcone perché si era sporta troppo. Si è conclusa positivamente nella tarda serata di ieri tra le montagne della Val Cimoliana una missione del soccorso alpino della Valcellina e dell'elisoccorso regionale per una coppia di escursionisti di 25 anni del Pordenonese che si trovava in difficoltà ed era dispersa. I due si sono ritrovati in una zona estremamente impervia e pericolosa attorno a quota 1000 nei pressi del Col della Gremane. A quel punto hanno contattato il 112 lanciando l'SOS. L'elicottero sanitario ha recuperato con il verricello la ragazza, mentre quattro soccorritori a piedi hanno accompagnato il ragazzo, illeso, fino a Fondovalle. L'emergenza si è conclusa attorno alle 22:30. Prosegue l'attività di contrasto allo sfruttamento della prostituzione ai danni di donne cinesi, condotta dai carabinieri di Trieste e coordinata dalla Procura. Dopo il sequestro di un primo centro massaggi, l'indagine ha portato alla scoperta di un secondo esercizio in via San Francesco, dove una 57enne cinese obbligava una connazionale a prostituirsi. Il locale, insieme a materiale e denaro per quasi 6.000 euro, ritenuto provento del reato, è stato sottoposto a sequestro. Le indagini hanno messo in luce un sistema di sfruttamento grave, con turni massacranti e compensi irrisori. Le vittime, spesso isolate e spaventate, non denunciano per timore e ignoranza rispetto ai propri diritti. La vittima è stata informata del supporto offerto dai centri antitratta, mentre il procedimento è ancora nella sua fase di inchiesta preliminare. C'è la grande fuga dal lavoro in direzione della pensione, ma c'è anche lo spostamento dal lavoro dipendente a quello autonomo. Insomma, il mondo del lavoro vive una mobilità insospettata. In Friuli Venezia Giulia 75.400 persone nei prossimi 5 anni abbandoneranno la loro collocazione attuale. C'è chi va in pensione, ma anche chi lascia scrivania o catena di montaggio per ritiro volontario, perdita dell'impiego, emigrazione o passaggio da lavoro dipendente a lavoro autonomo o viceversa. In tutto 75.400 lavoratori in Friuli Venezia Giulia, il 14% del totale, che nel prossimo quinquennio abbandoneranno definitivamente il loro impiego attuale. È il calcolo dell'Ufficio Studi della CGA di Mestre, che ha estrapolato i dati dalla periodica elaborazione realizzata dal sistema informativo Excelsior e parla di un esodo mai visto fino a ora, con conseguenze sociali, economiche e occupazionali di portata storica per la nostra regione. Non ultima una concorrenza fra le aziende per accaparrarsi i lavoratori più esperti e qualificati. Il fenomeno infatti interesserà in particolare la categoria del lavoro dipendente privato, che perderà 40.400 lavoratori, mentre quelli che resteranno saranno sempre più anziani, soprattutto nelle regioni più piccole. In Friuli Venezia Giulia ogni 100 dipendenti under 35 ce ne sono 73,6 che hanno più di 55 anni. Senza contare che anche in regione la domanda e l'offerta faticano a incrociarsi. Spesso i giovani alla ricerca di un'occupazione presentano un deficit educativo ed esperienziale notevole rispetto alle abilità professionali richieste dalle attività economiche. Si aprirà dunque una caccia ai lavoratori più qualificati, senza esclusione di colpi. Paolo Zabeo, coordinatore Ufficio Studi CGA di Mestre. Gli imprenditori del Friuli Venezia Giulia si troveranno costretti a corteggiare i più bravi che sono alle dipendenze delle aziende concorrenti, offrendo loro benefit e aumenti salariali significativi. Questo scenario, già presente ora, rischia di scatenare su larga scala forme di pressione reciproca, in cui i titolari d'azienda a corto di maestranze e i lavoratori più richiesti cercheranno un accordo per ottenere entrambi il massimo vantaggio, talvolta con modalità poco corrette, a scapito di quegli imprenditori che si vedranno scippare i collaboratori più importanti. La ristrutturazione di alcuni immobili di edilizia residenziale pubblica, la realizzazione di altri 54 alloggi dotati anche di ascensore, più la riqualificazione di aree verdi e la realizzazione di un nuovo impianto polisportivo sono alcune delle realizzazioni del piano PINQUA, il programma innovativo nazionale per la qualità dell'abitare, su cui a Trieste si cerca di fare il punto anche per iniziativa del PD. Un punto sull'avanzamento dei lavori previsti nel rione di San Giovanni a Trieste, per cui il Comune ha ricevuto un contributo da 15 milioni di euro dal Programma Innovativo Nazionale per la Qualità dell'Abitare, PINQUA. È quello che ha voluto fare il Partito Democratico di Trieste con il consigliere comunale Luca Salvati e i consiglieri della sesta circoscrizione per denunciare il fatto che costruire non basta e formulare proposte per informare e rendere partecipi i cittadini in merito ai lavori, che prevedono la ristrutturazione di alcuni immobili di edilizia residenziale pubblica in via Tintoretto e via Caravaggio, di proprietà del comune e gestiti da ATER, e la realizzazione di 54 alloggi dotati anche di ascensore. E poi la riqualificazione delle aree verdi dietro via San Pelagio e lungo via San Cilino, un nuovo impianto polisportivo polivalente e la creazione di una casa delle associazioni nell'ex scuola di via Caravaggio. Se quest'ultima opera si può definire a buon punto, non altrettanto vale per la ristrutturazione degli alloggi, dice Salvati, che denuncia l'ennesimo ritardo nelle opere pubbliche da parte della giunta comunale. Ma l'altro aspetto su cui il PD pone l'accento è il mancato coinvolgimento dei cittadini e delle realtà locali in un progetto pensato in origine per rendere il quartiere più inclusivo. Secondo Rossana Zagaria, esponente democratica in sesta circoscrizione, c'è ancora tempo per coinvolgere residenti e associazioni. Per questo la proposta alla giunta è di dare un mandato speciale al Consiglio circoscrizionale per riprendere in mano la regia del progetto e realizzare iniziative di conoscenza con il quartiere. E poi coinvolgere i sodalizi locali per informarli su come sarà possibile accedere ai nuovi spazi della Casa delle Associazioni e gli operatori sociali della microarea di San Pelagio. Trieste, Daniele Letti, TGR, Friuli Venezia Giulia. Ora uno sguardo al tempo, cielo da poco nuvoloso a variabile su pianura e costa, coperto in montagna. Queste le temperature registrate alle 11. A Trieste 21 gradi e 5 decimi, con mare quasi calmo con temperatura di 25 gradi e 5 decimi. A Pordenone 22 gradi e mezzo, a Udine 22 gradi, a Gorizia 21 e mezzo, a Tolmezzo 17 gradi e mezzo, a Tarvisio 16 gradi e mezzo, a Forni di Sopra 16 gradi, a Sappada 15, a Piancavallo 14. Sul Monte Zoncolan 10 gradi, sul Monte Lussari 9 gradi e 5 decimi, a Lignano e Grado 22 gradi, con temperatura del mare di 25 gradi in entrambe le località. Ed ecco le previsioni. Nelle prossime ore aumento della nuvolosità, in particolare sulla zona montana, dove saranno possibili rovesci e temporali sparsi, che verso sera potranno interessare localmente anche la pianura, specie quella orientale, venti a regime di brezza. La montagna è viva e dà segnali di ripresa. È emerso ieri alla presentazione a Sauris del Rapporto Nazionale sullo Stato della Montagna in Italia, voluto e curato dall'Unione dei Comuni e delle Comunità Montane. Per quanto riguarda il Friuli Venezia Giulia emerge anche una sorpresa. In regione i residenti dei comuni montani crescono al doppio del tasso nazionale. E dunque sentiamo Marco Bussone, presidente nazionale UNCEM, ed Hermes De Crignis, presidente della Comunità Montana della Carnia e sindaco di Ravascletto. La montagna non è un margine, è al centro dell'Europa, dialoga con gli altri paesi, è una montagna che attrae lavoro, che dà l'opportunità di vivere a persone che vogliono trasferirsi dalle aree urbane. E questa è una novità che l'UNCEM ha rappresentato, perché quel 2% in più di abitanti tra il 2019 e il 2023 è una speranza e noi abbiamo bisogno di costruire alleanze fra comuni per rispondere meglio alle esigenze delle famiglie che si trasferiscono. È una sfida europea. La montagna non è soltanto turismo. Non è solo turismo, è in primis agricoltura. L'agricoltura, la gestione dei versanti, la silvicoltura sono elementi cardine di una montagna nuova, dove si lavora con i droni, con gli harvester nelle foreste, per dire che il bosco non può essere abbandonato, ma è un pezzo portante dell'economia. Servono più servizi. Cosa manca nei comuni montani del Friuli Venezia Giulia, in particolare in Carnia? Direi che manca tanto, ma a livello di Carnia proprio, io rappresento tutta la comunità montana e di conseguenza devo dire che le difficoltà che abbiamo è proprio nell'approccio al fornire i servizi al momento giusto e nella maniera giusta. Quello che dobbiamo fare in questo momento è veramente sviluppare tutto quanto è possibile, ma le cose più piccole in realtà, per far sì che i movimenti che noi facciamo siano limitati, perché altrimenti vivere in montagna vuol dire avere maggiori spese, meno medici, meno scuole. Il problema grande è che mancano veramente le attività professionali di queste persone che hanno studiato fino all'altro giorno, ma che non sono sufficienti ancora per darci un servizio a livello regionale. Nella nostra realtà noi abbiamo la possibilità di avere dei medici che hanno studiato, che stanno rientrando comunque nelle nostre zone, e così anche con quelli che studiano. Cioè quelli che vengono e vanno a fare i corsi a livello romano rientrano volentieri a lavorare da noi, per però chiaramente dobbiamo mettere in rete una task force che riesca veramente a recuperare un gap che, se non altrimenti, diventa veramente difficile portare avanti. Andrea Saule, TGR Friuli Venezia Giulia. Per la terza stagione consecutiva, e cioè da quando la Croazia è entrata nell'euro, i prezzi anche in Istria aumentano a ritmo costante. Eppure non mancano i turisti e la Contea svetta in cima alla classifica delle località di destinazione in questa estate del 2025. L'Istria si conferma come meta gettonata e balza al secondo posto tra le aree turistiche più affollate d'Europa nel 2025, dietro solo alla Grecia. Un dato che emerge da uno studio condotto da Which, portale dedicato al mondo dei viaggi, che ha analizzato il rapporto tra pernottamenti annuali e il numero dei residenti. Così le 32 località istriane, anche in quest'estate, conservano il segno positivo rispetto allo stesso periodo della scorsa stagione, con la capofila Rovigno, che raccoglie fino ad ora un più 3% con 198.000 pernottamenti. Vacanzieri provenienti per lo più da Germania, Austria e Italia, con un fascio d'età più numeroso tra i 45 e i 64 anni di età. Per quanto riguarda gli italiani, la maggior parte scelgono gli appartamenti, quindi in case private, meglio che gli alberghi, i campeggi e il resto, e sono appartamenti a 4 stelle. Nella terza stagione consecutiva, cioè da quando la Croazia è entrata nell'area dell'euro, i prezzi secondo gli analisti sono costantemente lievitati, anche se tra i turisti i pareri sono contrastanti. Ah, i prezzi chiaramente sono un po' più alzati perché c'è l'euro, è abbastanza logico. E oggi abbiamo mangiato a pranzo a meno che in Italia, veniamo da Lignano e per ora ci stiamo trovando bene. E sul caro prezzi del turismo in Croazia è intervenuto anche il premier Andrej Plenković, che ha suggerito agli operatori di rivedere le tariffe. Un settore in forte espansione nella regione istriana è quello del turismo del lusso, con strutture d'avanguardia e servizi di alto livello. Quest'anno siamo molto molto molto popolari sul mercato italiano, perché triestini, milanesi, torinesi, veronesi e anche veneziani sono in amore con noi, in amore con Istria. Anche nelle marine lungo la costa istriana sono parecchi gli italiani che continuano ad ormeggiare le proprie imbarcazioni in acque croate. I marina stanno migliorando di anno in anno, i servizi stanno migliorando, le strutture e anche l'assistenza che viene data ai diportisti. Andrea Rinaldi, TGR Friuli Venezia Giulia. Dal mare dell'Istria alla Carnia saliamo a Ovaro e precisamente a Clodinico, dove si organizzano passeggiate con gli abitanti delle borgate e con i turisti per riscoprire la storia locale, compresa quella di un'antica miniera nella quale avevano lavorato anche 1600 persone. Aprire casa è un po' come aprire il cuore. Vedere una porta aperta significa che in quella casa c'è ancora del sentimento. La signora Lieta è nata e cresciuta a Clodinico. Oggi lei, come alcuni dei residenti di questa frazione di Ovaro, aprono le porte di casa propria a turisti e curiosi. Sono venuta da sola, ma una piacevolissima giornata. Qui fino al 53 era attiva la miniera di carbone, registro c'erano fino a 1600 dipendenti. Ogni cosa a suo modo rimanda a quegli anni. Alido Zuliani, 76 anni, portava il pranzo al papà, impegnato nei 150 chilometri di gallerie sotterranee, dove tutto si riciclava e le casse di dinamite diventavano stipetto. E queste inferriate qui sono tutti pezzi dei binari della miniera. Per un giorno Alido diventa guida di una passeggiata di comunità, molto partecipata nonostante la pioggia iniziale, a prodo di un progetto comunale finanziato dal 2022 con il PNRR nell'ambito del bando Borghi, per incentivare nuove residenzialità, stimolare un turismo sostenibile, prevede interventi su percorsi didattico-museali, sistemazione di sentieri, riqualificazione di aree abbandonate, ma soprattutto tutela del patrimonio del territorio. Marta Tasso, curatrice del progetto. Ci sono tanti turisti che vogliono visitare i paesi in maniera diversa, soprattutto incontrando chi vive i luoghi, perché questo è un po' anche il segreto di cui siamo abbastanza convinte, è che il turismo deve porsi in maniera dolce, accomodante e inclusiva nei confronti di chi vive i luoghi. Agata Gride, l'assessore alla cultura e all'istruzione del comune di Ovaro. L'investimento, diciamo, che speriamo abbia anche più rilevanza nel tempo è proprio quello dal punto di vista immateriale, ovvero finalizzato a creare le condizioni per rinnamorare gli abitanti di Ovaro rispetto al loro patrimonio. Tra i 40 e i 50 abitanti d'estate il paese rifiorisce, si rivedono gli emigrati e anche chi ha ristrutturato la vecchia stalla per tornare a strappare un sorriso al nonno che guarda, sicuramente felice, da lassù. Condividere i suoi oggetti, le sue storie, la sua memoria, per lui sarebbe stata una cosa bellissima. Quindi anche io come nipote provo gioia. Ovaro, Lillo Montaltomonella, TGR Friuli Venezia Giulia. Primo bilancio della 34esima edizione dell'Alpe Adria Puppet Festival di Grado, la rassegna di teatro di figura ideata dal CTA di Gorizia, svoltasi dal 18 al 22 agosto. Le incertezze del maltempo non hanno pesato sulla riuscita della kermesse, che, fanno sapere gli organizzatori, ha ormai un consolidato rapporto con l'Isola del Sole, dove rimarrà senz'altro fino al 2029, grazie alla vittoria del bando per l'affidamento di un incarico quinquennale da parte dell'Ufficio Cultura del Comune. In questi giorni abbiamo avuto un crescendo di pubblico ad ogni spettacolo, ha commentato il direttore artistico del Puppet Festival, Roberto Piaggio, e questo ci permette di pensare a nuovi progetti in modo da trasformare Grado in una vera cittadella del teatro di figura. In media 200 persone hanno partecipato ad ognuno degli spettacoli serali e ottime presenze anche a quelli pomeridiani. Tra gli appuntamenti ospitati nelle tappe di San Canzian di Sonzo, Cividale del Friuli e Farra di Sonzo. Prossimo appuntamento l'edizione autunnale dedicata al tema Prospettive, in programma a Gorizia e a Nova Gorizia dal 3 all'8 ottobre. Sarà la Corte di Palazzo Morpurgo a Udine a ospitare il prossimo appuntamento del ciclo di eventi Vie di Fuga Aperitivo con l'Arte dedicato a Vincent van Gogh. La vita e l'arte del pittore olandese saranno raccontate in parole e musica dalla giornalista Cristina Bonadei, dal fotografo Massimo Tommasini, che è anche regista dell'evento, e dal pianista Riccardo Morpurgo. Lo spettacolo sarà preceduto da un incontro con alcuni rappresentanti di Medici Senza Frontiere. Alle 20.30 a Palazzo Morpurgo a Udine. E cominciano stasera a Mossa le serate musicali a Villa Codelli, un ciclo di 5 concerti a ingresso gratuito che è ormai una tradizione di fine agosto nell'Isontino. Un cartellone sotto il segno della varietà, dello spazio destinato a musicisti emergenti e degli anniversari di grandi compositori, dal 700 ad Ennio Morricone. Primo appuntamento stasera alle 21, diamo uno sguardo però all'intero programma col direttore artistico Romolo Gessi. Ci sono varie tipologie di concerti, come quello di apertura affidato a Martina Frezzotti. Con Ravel si celebrano i 150 anni dalla nascita, e poi Liszt e Chopin. Poi abbiamo invece domenica 24 agosto il duo tromba e pianoforte. Cameristicamente non sono molti i concerti che si sentono con tromba solista. Abbiamo il giovane Cristiano Brusini, vincitore del concorso Karajan, ma premiato anche al concorso di New York, dove ha vinto il primo premio con debutto a Carnegie Hall. Quindi è un giovane udinese che si sta facendo strada insieme a Daphne Comelli. Eseguiranno musiche di Hummel, Verdi, Arban, Brahms e Chalier. Anche qui con Arban abbiamo i 200 anni dalla nascita. Venerdì 29 agosto abbiamo Ruben Schaferi con musiche di Beethoven e Chopin. Di Chopin faremo l'integrale dei preludi con questo giovane pianista vincitore del premio di Radovlica. E c'è un concerto speciale che celebra insieme due maestri italiani a distanza di due secoli. Sabato 30 agosto abbiamo le celebrazioni musicali con l'Orchestra da Camera Friuli Venezia Giulia da me diretta, con Mariana Sinagra, eccellente violoncellista, con musica di San Martini nel 250esimo dalla scomparsa, e poi Haydn, Stölzel, Morricone, come si diceva, nel quinto della scomparsa. Ma avremo anche Ada Gentile, grandissima compositrice contemporanea, per una prima regionale di un brano da lei dedicato proprio alla figura di Morricone. Gran finale sarà domenica 31 agosto con Lascia Cantare il Cuore, con Andrea Vinetti, Stefania Seculin e Corrado Gulling al pianoforte, allora due cantanti al piano, per ricordare le musiche del repertorio dell'operetta, musical e delle canzoni degli anni d'oro della radio, anche qui con un ricordo al 200esimo dalla nascita di Johann Strauss, del 50esimo dalla scomparsa di Robert Stolz e del 30esimo dalla scomparsa del grande fisarmonicista, direttore d'orchestra e compositore italiano Gorni Kramer. Trieste, Andrea Vardanega, TGR Friuli Venezia Giulia. Dopo gli importanti lavori di riqualificazione che hanno interessato le sue aree verdi, Villa De Claricini in Dornpacher apre le porte al pubblico oggi con l'opening dell'installazione Radici dello Sguardo dell'art designer Massimo Clemente a Botenico di Moimacco alle 17.30. Quinto fine settimana dell'edizione 2025 delle rievocazioni storiche, le stagioni delle armi al Castello di San Giusto a Trieste. Oggi e domani la Compagnie d'Arme Malleus accompagnerà i visitatori al Castello di San Giusto nel periodo storico compreso fra il Medioevo e il Rinascimento. Visite guidate alle 15, alle 16.15, alle 17.30. La rassegna estiva a Vostanis fa tappa ad Aquileia, dove sarà presentato in anteprima l'Agnotto di Macore, il libro illustrato sull'indagine aquileiese di Don Gilberto Pressacco, una graphic novel di Fiorenzo Innocenti con traduzione friulana di Gottardo Mitri, nella sala consiliare alle 18. Appuntamento triestino per la rassegna itinerante Palchi nei parchi, al Parco di San Giovanni, nell'area esterna al Teatrino Franca e Franco Basaglia, alle 18.30 in programma il concerto Canvas Melodies, dal titolo dell'album d'esordio del giovane contrabbassista udinese Alessio Zoratto, con la partecipazione speciale del sassofonista Francesco Bearzatti. Sono le 12:55 minuti 30 secondi. L'assistenza tecnica è stata curata da Caterina Cabrelli e da Federico Comar. Ha collaborato in redazione Laura Sarasini. La nostra informazione torna in TV col telegiornale in onda su Rai 3 alle 14 e poi alla radio col GR delle 14.30, l'orario del sabato, su questa frequenza. Vi invitiamo anche a seguire gli aggiornamenti delle notizie sui profili social della nostra redazione e sul nostro sito, che è raggiungibile scrivendo nella barra di internet Rai TGR FVG. Grazie della cortese attenzione. Da Lara Zani e da Antonio Cagliazza l'augurio di un buon pomeriggio e a risentirci. Abbiamo trasmesso TGR, giornale radio del Friuli Venezia Giulia.